tutte le persone che sono qua, è l'occasione di discussione che questa sera si dà e che penso che sia particolarmente importante, perché non è semplicemente la presentazione di un libro, ma in quanto c'è la possibilità di unirla con un filone di continuità rispetto a una discussione, un ragionamento e a un progetto concreto di inchiesta sui call center, quello di cui parlava prima Carlo nella sua introduzione, e in particolare su Fonetica, che come mi spiegavano quest'oggi è ormai la realtà produttiva più grossa qua a Novara, con 1500 persone che vi lavorano dentro e che restituisce anche dal punto di vista simbolico, metaforico, ma anche concreto e spaziale un filone di continuità con quello che era la dimensione della fabbrica, pur con tutte le differenze, le discontinuità di passaggio tra le vecchie forme del lavoro, invece quelle nuove. Credo che anche questo sia poi uno dei temi centrali che il libro che viene presentato ha cercato di indagare. Questo testo fondamentalmente nasce da una domanda e con un obiettivo. La domanda è che cosa unisce le differenti forme di conflitto che abbiamo visto dispiegate nell'ultimo anno e mezzo, lotte in situazioni sicuramente molto differenti tra di loro, gli operai di Melfi ai ricercatori universitari, dai lavoratori e precari dell'Alitalia agli scioperi selvaggi degli autoferrotranvieri. E quindi, insomma, è possibile, o prima ancora di questa domanda, è possibile individuare un filo rosso, un filo conduttore tra queste differenti lotte? Ecco, questa è la domanda iniziale da cui nasce il testo, che evidentemente sottende anche una scommessa politica rispetto alla costruzione di uno spazio comune in cui soggetti differenti iniziano a interagire, costruire ragionamento, discorso politico e spazio conflittuale. L'obiettivo di questo libro è cercare di interrogare parole e concetti che oggi hanno larga diffusione. Se hanno larga diffusione, io credo che sia principalmente innanzitutto per la capacità che gli ambiti di movimento hanno avuto negli ultimi anni di dare a queste parole e a questi concetti visibilità e sostanza. Mi riferisco al discorso della flessibilità, della precarietà, della crisi della rappresentanza. Ebbene, dicevo, interrogare queste parole e concetti dandone in qualche modo per scontato il lato negativo, ossia l'attacco capitalistico, quello che è stato definito l'ondata neoliberista negli anni 90, lo smantellamento dei diritti, le condizioni, il peggioramento delle condizioni di vita. Ebbene, dando in qualche modo per scontato, quindi non rimarcando il lato negativo, anche perché si suppone che su questo, in questa sala siamo tutti d'accordo, nessuno penso che possa ragionevolmente affermare che la precarietà sia una condizione bella, e o bene o male chi compra un libro della Manifesto Libri in linea di massima già dà per scontato il lato negativo di tutti questi concetti che ho detto, però al contempo cercando di indagarne, di far emergere il lato soggettivo, l'ambivalenza, l'altro aspetto che in queste dimensioni emerge. Insomma, in qualche modo attraverso il racconto delle lotte, dei conflitti, delle condizioni di vita, di lavoro, e attraverso la carne viva dei processi, interrogare le forme del conflitto, di organizzazione e di trasformazione che possono essere adeguate alla nuova composizione, ecco, del lavoro vivo contemporaneo. Rispetto a questa domanda e a questo obiettivo cerco in maniera più o meno sintetica di soffermarmi in particolare su quattro punti che cerchiamo nella ricerca di mettere in evidenza, che grosso modo emergono un po' da tutti i racconti. E sottolineando questi quattro punti provo anche a venire incontro alle sollecitazioni rispetto alla dimensione territoriale, rispetto allo spazio della May Day, a quello che ci sarà dopo la May Day, che Carlo faceva e poneva nella sua introduzione. Il primo punto che mi pare si affermi attraverso la ricerca è che il precariato è assolutamente un dato strutturale, cioè non può più essere confinato a una semplice dimensione generazionale, non può più essere confinato alla dimensione della tipicità dei lavori, e non può più nemmeno riguardare la dialettica classica, che poi o bene o male è fatta propria dalle organizzazioni tradizionali della sinistra e ancora del sindacato, che è quella tra il lavoro garantito e il lavoro non garantito, perché la dimensione della precarietà eccede ampiamente i confini del lavoro e diventa una dimensione di precarietà esistenziale che riguarda anche le cosiddette forme del lavoro garantito. Quindi la dimensione della precarietà diventa assolutamente strutturale. Si pensi solo a un caso come quello, poi occupato nello specifico sia in questo testo poi in quest'altro libro, che anche sul libro di ricerca sulle mobilitazioni dell'università dei ricercatori precari, appunto delle mobilitazioni sulla precarizzazione del lavoro accademico, e alcuni dati possono rendere l'idea rispetto alla dimensione strutturale della precarietà, e credo che la rendono in modo ancora più forte se si pensa che o bene o male l'università può essere tradizionalmente, o almeno sempre stata tradizionalmente ritenuta in qualche modo un porto franco, una dimensione al riparo. Ecco, la carriera accademica è sempre stata ritenuta, insomma, sempre stata rivestita di una sorta di aura di privilegio, di status, di privilegio economico, eccetera, eccetera. Ebbene, se invece si va a scavare nella dimensione attuale, il panorama che ne emerge è di tutt'altro tipo. I racconti e le esperienze dei ricercatori precari parlano con chiarezza di una dimensione di percorsi di 10-15 anni, inseguendo contratti e contrattini di un anno, di due anni o di sei mesi, senza nessuna garanzia rispetto poi a una continuità di reddito, e alcuni dati possono rendere in maniera chiara tutto questo. All'università di Milano, due corsi su tre vengono affidati a figure non di ruolo, in alcune facoltà addirittura raggiungono e superano il 90%. All'Università di Bologna, se non ricordo male, il rapporto tra docenti strutturati, quindi figure di ruolo, e precari è di 1 a 3, quindi esistono 3 precari per ogni figura di ruolo. Nelle altre università, grosso modo, i rapporti sono questi, 1 a 2 o 1 a 3. Questo per dire che evidentemente oggi l'università italiana, e quando dico l'università italiana dico evidentemente una dimensione che si pensava al riparo rispetto a queste logiche, l'università italiana è retta per buona parte o per grossissima parte dal lavoro precario, cioè se non ci fossero i precari l'università chiuderebbe dall'oggi a domani. Ecco, per cui è evidente che questo da una parte evidenzia la dimensione della precarietà e di un filo comune di precarietà che unisce le diverse lotte che qui vengono raccontate, le diverse figure, un filo comune in negativo, potremmo dire, una precarietà in quanto assenza di continuità di reddito, di tutele, di servizi e di diritto, ma in positivo anche in una consistenza sia dal punto di vista numerico sia dal punto di vista della potenzialità conflittuale e rivendicativa che evidentemente unisce le figure di cui stiamo parlando. Ma si parla della centralità della dimensione del precariato, non bisogna confondere questo, almeno a mio avviso, con la vecchia immagine della figura centrale a cui siamo stati tradizionalmente abituati. Non so, negli anni 60 e 70 si diceva che l'operaio masso, ossia l'operaio dequalificato delle grandi fabbriche, era la figura centrale, quanto la figura di punta attorno a cui precipitava tutto quanto il conflitto di classe dell'epoca. Quindi si supponeva una figura centrale, un soggetto centrale, in quanto connotato da una dimensione omogenea, unitaria e unificante. Ebbene, il precariato invece si connota in tutt'altro modo. Il precariato, come emerge da questi racconti, da Fiumicino all'università, a Scanzano, agli autoferrotranvieri, si connota per una dimensione multiforme, si connota per una dimensione molteplice, si connota per delle espressioni di rivendicazione, anche di singolarità, che sono irricomponibili in un soggetto unico, in un soggetto omogeneo o in una figura che tutto quanto possa racchiudere. Quindi da qui deriva anche una dimensione eccedente rispetto alle possibilità di una rappresentazione unitaria della figura del precariato. Quindi questa molteplicità, queste molteplici espressioni di singolarità che da posizioni differenti producono conflitto, e che al contempo possono parlare appunto il linguaggio della generalità in quanto condizione precaria, ma al contempo esprimono delle posizioni, delle espressioni di singolarità assolutamente irriducibili ad unità. Quindi questo è il primo punto. Il precariato è un dato strutturale, il precariato è comunque una figura molteplice, cui convivono la dimensione della generalità e della singolarità.